Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria, partiamo subito dalle borse, dove devo dire Milano è la peggiore, ma non è che le altre se la passino molto meglio. Parigi perde l'1,70, Francoforte meno 1,50, Londra meno 1,70, Milano meno 2,1%. L'America perde mezzo punto percentuale, male oggi soprattutto i titoli bancari per un doppio motivo: da un lato uno spread che è tornato a salire sempre sotto i 300 punti ma a 280 punti base, ma soprattutto, e qui bisognerebbe anche capire insomma quanta speculazione ci sia, un report. Noi i report non li amiamo, lo dico sempre, perché finché la società che non emette questi giudizi non chiarisce anche qual è il suo conflitto di interessi con le azioni che va a giudicare, a valutare, cioè se dice vendere il titolo X, io vorrei sapere quanto ne ha in portafoglio lei, oppure se dice comprare il titolo Y, quanti ne ha da vendere. Ecco, li tratterei sempre con le pinze, anche perché abbiamo visto nel passato che in molti casi la società che metteva un giudizio da un lato, dall'altro lato si comportava in maniera diametralmente opposta quando doveva gestire e fare lei investimenti. Detto questo, Société Générale ha indicato alcune banche italiane come sopravvalutate. Oggi i titoli bancari sono tutti in calo, non è però un bancario il peggiore, ma è Finmeccanica meno 4,14%, Azimut meno 4 anch'essa, Mediaset meno 3,80 e poi il gruppo dei bancari, dicevo, meno 3,70 Intesa San Paolo, meno 3,5 Fondiaria Sai, meno 3,40 Popolare Emilia Romagna, meno 3,30 Banco Popolare. Male anche Buzzi-Unice, meno 3%, come Ferragamo ed Enel. Il 2,90 lo perde UbiBanca, il 2,80 Prismian, il 2,70 Pirelli e il 2,50 Monte dei Paschi di Siena. Bene invece Autogrill, più 1,80 Parmalat, più 0,40%, invariate, quindi vista la giornata bene, ST Microelectronics più 0,14%, Enel invariata, Mediolanum invariata. L'euro è sempre forte, quota 1,3270 sul dollaro. Parleremo però oggi di OMT, cioè del fondo di salvataggio, quello che fu varato da Mario Draghi e che è attualmente sotto giudizio della Corte Costituzionale tedesca. La cosa può sembrare strana, ma in realtà non è così, perché gli OMT Mario Draghi li ha definiti come la misura monetaria di maggior successo negli ultimi tempi, e cioè la possibilità di avere un fondo, il fondo salva stati, questo è l'OMT, che permetta il fondo cosiddetto anti-spread anche. In realtà la Corte Costituzionale tedesca, il Karlsruhe, di Karlsruhe, fa il processo agli OMT. Perché interviene? Perché i giudici dovranno capire se il programma rispetti o meno il principio costituzionale tedesco del controllo del Bundestag sulle questioni di bilancio, e cioè che la Camera tedesca deve avere il controllo sulle questioni di bilancio, ma la loro giurisdizione non arriva fino alla Banca Centrale Europea. È un modo sostanzialmente anche per far emergere falchi e colombe dentro la Banca Centrale Tedesca, e comunque avrà un impatto politico, e quindi un impatto ce l'avrà sulla Banca Centrale e anche sulla Commissione Europea. Devo dire che una bocciatura appare improbabile, ma ne parleremo tra pochi minuti. Poi ci occuperemo invece dei risparmiatori italiani. Oggi un rapporto di UBS mostra più di una contraddizione in quella che è la percezione dell'andamento dell'economia e dei mercati rispetto poi alle scelte che vengono fatte. E ancora parleremo nella seconda ora del programma con il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, perché oggi la Commissione Europea ha varato un piano strategico per l'acciaio, per la siderurgia europea. Si chiama Piano d'azione per la siderurgia europea, e l'ha predisposto proprio il vicepresidente Tajani, che ha anche la delega all'industria. 6 punti, tra cui si introduce anche la possibilità degli aiuti di Stato in alcuni termini e con alcune modalità per il settore siderurgico, oltre che aiuti di carattere europeo e invito forte a contenere il prezzo dell'energia e quindi la tassazione anche sull'energia. Il tutto per cercare di porre un freno a un settore che è fondamentale. L'Europa è, dopo la Cina, il principale produttore di acciaio al mondo, ma c'è una sovrabbondanza di acciaio in questo momento, che significa 500 milioni di tonnellate a livello mondiale in più, 540 rispetto alla domanda, e per quello che riguarda l'Europa 80 milioni di tonnellate prodotte in più, quindi di sovrapproduzione. 349-238-6666 per i vostri sms. Chiede giustamente un ascoltatore: ma può una corte costituzionale nazionale come quella tedesca giudicare un organismo sovranazionale? No, da come la capisco io, poi ne parleremo. No, ma può, infatti il giudizio da un punto di vista formale è sul fatto che sia stato o meno esautorato dalla sua funzione il Parlamento, la Camera tedesca, nell'avere l'ultima parola sull'operazione di bilancio. In realtà a me, detta fuori dai denti, sembra un'operazione abbastanza pretestuosa per riproporre il tema se la Banca Centrale Europea deve funzionare come banca centrale, come fanno le altre banche centrali, oppure deve limitarsi a controllare l'inflazione e i tassi di interesse, di conseguenza, come vorrebbero gli ortodossi e i falchi della Bundesbank. Tutto qua, se vogliamo dirla fuori dai denti. Anche a me sembra un po' così, non dico strampalata, ma sembra un po' strana questa corte costituzionale tedesca che si occupa delle decisioni della Banca Centrale Europea. Ma tant'è, ne parliamo fra poco. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Le altre notizie di questa giornata economico-finanziaria, al di là appunto della borsa, dei temi che toccheremo, c'è l'oro che è ampiamente sotto il $1,400 l'once, siamo a 1.383, il petrolio $94 al barile. Per quello che riguarda l'Italia, oltre allo spread 280 punti, il governo lo ha oggi comunicato durante e dopo la riunione di maggioranza. Varerà un decreto del fare prima del vertice europeo, ma è arrivato l'allarme della Confartigianato oggi. Le imprese italiane, ha detto il presidente Merletti, corrono contromano e ad occhi bendati, e si fa di tutto per spingerci oltre confine per trovare condizioni normali per fare impresa. Il fisco italiano tassa al 68% gli utili lordi di impresa, in Svizzera appena al 30%. Ma diciamola tutta, 68% di tassazione sugli utili lordi di impresa è una cosa che non si può sentire. E poi sempre il presidente della Confartigianato Merletti: la riforma Fornero è da rifare, ha aumentato costi e complicazioni invece di aumentare l'occupazione. Abbiamo perso 1200 occupati al giorno nelle imprese artigiane, e per i giovani è stata una vera e propria debacle. E poi sempre Merletti ha detto: prima abbiamo avuto un governo tecnico supplente, poi lo stallo alla messicana. Intanto, nei 600 giorni dal novembre del 2011 a oggi si sono perse 60.000 imprese artigiane, la disoccupazione è cresciuta di oltre 8 punti, il PIL è calato del 3,4, la pressione fiscale è aumentata di 2 punti percentuali, il credito alle imprese è diminuito di 65 miliardi. Obiettivamente sono tutti dati veri, è un bollettino di guerra, ma purtroppo è così. La pressione fiscale sulle imprese, tra l'altro, è di 2,5 punti sopra la media europea, e cioè, secondo la Confartigianato, toccherà nel 2013 il 44,6% del PIL, e 38 miliardi di maggiori imposte paghiamo rispetto ai partner europei, sono 640 euro in più per abitante. Allora, ha ragione anche chi scrive e parla del nero. È vero, sappiamo che c'è l'economia sommersa, però attenzione, una tassazione che vale il 44,6% del PIL è una tassazione che non ci potrà da nessuna parte, io lo dico in maniera molto tranquilla. Tanto facciamo le battaglie per la lotta all'evasione e con certe dichiarazioni dei redditi, tanto va detto con tranquillità ma con molta fermezza che non esiste un paese che possa riprendersi se tu hai un prelievo fiscale sugli utili d'impresa al 70% quasi e una pressione del fisco sul PIL che è quasi la metà, vuol dire che quasi la metà di quello che produce il paese in un anno se ne va in tasse, eh? Allora, molti di voi mi hanno scritto, avete ragione, ai tempi della Prima Repubblica, volete sapere quanto era la pressione fiscale durante il governo Craxi, per esempio, era al 28% del PIL, qui siamo quasi al doppio. È vero che per non aumentare le tasse aumentammo il debito, però sto dicendo che con un paese quando paga metà di quello che produce se ne va per pagare le tasse, non va da nessuna parte. Intanto il ministro Giovannini ha confermato, come ha fatto anche i nostri microfoni venerdì, che il pacchetto di misure per gli incentivi sul fronte lavoro sarà pronto a giorni, credo molto presto. Per quello che riguarda invece l'osservatorio della Confesercenti, la Confesercenti parla di desertificazione urbana nei primi 4 mesi del 2012, penso che il dato sia riferito al 2012, per ogni nuova apertura hanno chiuso 3 negozi. Di questo passo, dice la Confesercenti, in 10 anni non ci saranno più negozi in Italia. È chiaro che questa è un'estremizzazione, però il saldo da gennaio ad aprile di quest'anno è negativo per 13.000 unità, cioè tra quelle che hanno aperto e quelle che hanno chiuso la differenza fa meno 13.000, e continuando di questo passo sarà di circa meno 43.000 a fine anno. 2 notizie ancora e poi passiamo ai temi di questa puntata. Per quello che riguarda il lavoro minorile, già ve l'hanno raccontato i nostri GR, ma insomma è impressionante il dato oggi diffuso dall'associazione Bruno Trentin, da Save the Children, e alla vigilia della giornata mondiale contro il lavoro minorile. Praticamente 1 su 20 tra i minori di 16 anni in Italia lavora, e il 5% di quelli tra i 7 e i 15 anni. Sono 260.000 preadolescenti costretti a lavorare, ricordo che infatti è illegale, sono 30.000 14enni, 15enni a rischio di sfruttamento, che fanno un lavoro pericoloso per la loro salute, sicurezza o integrità morale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in molti casi il minore viene fatto lavorare magari nell'attività di famiglia, nel ristorante, nella pizzeria, nel negozio, in quello che è, e già non si potrebbe, ma in molti altri casi, 30.000, viene fatto lavorare e sfruttato senza che vi sia, diciamo, nessuna, chiamiamolo così, tirocinio all'italiana, nei campi o in situazioni di sfruttamento e pericolosità per il minore stesso. Il GIP di Siena, Ugo Bellini, dell'ultima notizia, tra quelle in breve, per l'inchiesta al Monte dei Paschi, ha disposto il giudizio immediato per l'ex presidente Giuseppe Mussari, l'ex direttore generale Antonio Vigni e l'ex direttore generale della Finanza Gianluca Baldassarri. E attendiamo con ansia di capire come si difenderanno i tre, visto quello che si è scoperto nel frattempo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Volete sapere quando saremo a Firenze in diretta per Pitti? Il 19 di giugno, non so perché c'è tutto questo interesse per Pitti, comunque siamo lì il 19 di giugno. No, Pitti è una manifestazione importantissima, saremo in diretta, non solo Focus Economia, molti dei programmi della radio, il 19 giugno per quello che riguarda questo programma. Allora, andiamo in Germania e cerchiamo di capire cos'è questo strano caso di una corte costituzionale che si mette a giudicare l'iniziativa presa dalla Banca Centrale Europea, ossia lanciare un fondo, il fondo OMT, chiamato anche Fondo Salva Stati. Allora, sabato scorso un articolo del Frankfurter Allgemeine Zeitung indicava come che il presidente della BCE Mario Draghi sarebbe pronto a imporre un tetto al fondo salva stati, che in questo momento un tetto non ce l'ha, fino a un limite di 524 miliardi di euro. In realtà poi un portavoce della BCE ha detto la ricostruzione del Frankfurt Allgemeine Zeitung non è corretta, non ci sono limiti ex ante, cioè decisi prima, all'ammontare degli acquisti che la Banca Centrale Europea può effettuare nell'ambito del programma OMT. È il programma Salva Stati, perché si chiama Salva Stati o Anti-Spread, perché prevede che la banca centrale entri e compri eventualmente debito di un paese sotto attacco dalle speculazioni. Ieri Mario Draghi ha assicurato che l'OMT non verrà utilizzato in modo improprio per garantire la solvibilità dei paesi, ha anche rivendicato che proprio grazie a questo piano oggi per i contribuenti tedeschi i rischi sono molto più bassi rispetto a un anno fa. Ma il programma è molto contestato in Germania da un gruppo di politici, economisti e giuristi tedeschi, tra cui il presidente della Bundesbank Hans Widmann, che aveva votato contro lo scudo in settembre, ha continuato a criticare il programma. E Widmann potrebbe sostenere che l'OMT è legalmente discutibile. Secondo un sondaggio del quotidiano Handelsblatt, quasi un tedesco su due vorrebbe stoppare, bloccare il programma di acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea. Cioè, l'OMT funziona che quando uno Stato è sotto attacco, la Banca Centrale Europea si mette a comprare debito, cioè titoli di Stato di quello Stato, per abbassare lo spread e quindi i rendimenti di titoli di Stato e quindi il costo che ha questo per uno Stato. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Allora, prima cosa, poi vediamo le varie dichiarazioni, ma allora, da un punto di vista giuridico non ha nessun senso che una Corte Costituzionale giudichi la BCE. Lì in realtà la Corte Costituzionale tedesca è stata chiamata in causa perché si vuole capire se il Parlamento tedesco, se ho ben capito Alessandro, sia stato esautorato dal controllo di bilancio? Dunque, intanto bisogna dire che in Germania, a differenza che l'Italia o altri paesi, qualunque cittadino può presentare un ricorso alla Corte Costituzionale tedesca. Per cui se a qualcuno non garba che la BCE faccia l'OMT o qualsiasi altra decisione che venga presa, può rivolgersi alla Corte Costituzionale tedesca, fare ricorso e chiedere che questa cosa sia dichiarata contraria alla legge fondamentale che è la Costituzione tedesca. In questo caso si sono mobilitati politici di destra e di sinistra, questo ricorso alla fine è stato firmato da 35.000 cittadini, il che dà anche un'idea della sensibilità dei tedeschi su questi temi e dei timori che hanno di essere loro poi alla fine a finanziare tutti questi salvataggi europei. Di che cosa si discute? Come giustamente hai detto, la Corte Costituzionale tedesca non ha giurisdizione sulla BCE, ci mancherebbe, che è un'istituzione europea e quindi eventualmente è soggetta alla Corte Europea di Giustizia, e questa è una cosa che il Presidente della Corte tedesca stamattina ha sottolineato, però i ricorrenti hanno posto questo problema. Se questi interventi della BCE dovessero creare dei rischi per il bilancio dello Stato tedesco, perché poi uno di questi paesi, dopo che la BCE ha acquistato il suo debito, fallisce, allora alla fine, poi, siccome i soci della BCE sono i paesi dell'Eurozona e la Germania è quella è il socio più importante, il bilancio tedesco sopporterebbe delle perdite, quindi si va a violare la sovranità fiscale, la sovranità di bilancio del Bundestag, cioè del Parlamento tedesco. Questa è la tesi dei ricorrenti. Il rappresentante della BCE davanti alla Corte oggi ha sostenuto che il mandato della BCE è sì quello di garantire la stabilità dei prezzi, cioè di lottare contro l'inflazione, però, cito testualmente, la cosa giusta per mantenere la stabilità dei prezzi può essere fatta solo se una moneta, insomma, può essere stabile solo se la sua esistenza non è in dubbio. Ricordiamoci le circostanze in cui è stato introdotto questo OMT, o quantomeno è stato lanciato, perché ancora non è stato usato, nell'estate scorsa, quando i titoli spagnoli e anche italiani avevano superato il 7% come rendimenti, la situazione era insostenibile, i mercati erano convinti che l'euro si sarebbe fratturato, si sarebbe rotto da un momento all'altro. Quindi, cioè, diciamo, la BCE dice: attenzione, io come mandato è vero che non devo salvare gli stati, ma solo controllare l'inflazione, i tassi di interesse e quant'altro. Però per controllare l'inflazione, la stabilità dei prezzi, che tanto ossessione tedeschi, devo avere anche una valuta, perché se la valuta è a rischio, se no, o rischia di saltare, hai voglia di controllare i prezzi se non sai se ci sarà l'euro oppure l'euro di serie A, l'euro di serie B. E mi sembra un discorso che capisce anche un bambino. Ma evidentemente c'è un elemento pretestuoso in questo. E lo dico perché mentre il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha detto non ci sono dubbi che la BCE opera all'interno del suo mandato, per cui ha difeso, e anche Angela Merkel ha detto attenzione, la Germania avverte gli effetti della crisi, perciò è molto importante capire che se all'Europa le cose non vanno bene, nemmeno alla Germania possono andare bene. Ci abbiamo messo 2 anni, ma l'abbiamo sentita sta frase. E ha anche difeso Angela Merkel, la Banca Centrale Europea, dicendo noi crediamo che la BCE assicuri la stabilità dei prezzi dell'area euro. Hai fatto bene a ricordare che questo è un processo alle intenzioni, nel senso che l'OMT non è ancora mai stato usato come strumento, cioè nessuno ha tirato fuori un euro, né gli italiani, né i tedeschi, né i francesi. Uno. Due, faccio notare che oggi fonte tedesca, cioè l'istituto economico IFV, ha stimato in 100 miliardi di euro il risparmio che il governo tedesco avrà nel 2014 grazie ai bassi tassi di interesse dei titoli di Stato tedeschi, okay? Perché la Germania in questo momento è il paese più affidabile e si avvantaggia invece della debolezza degli altri paesi europei, di alcuni degli altri paesi europei. Dal 2009 avrebbe già risparmiato 80 miliardi. Allora dico, di cosa si lamentano i tedeschi? Avete dei tassi così bassi che vi permettono un finanziamento quasi a tassi negativi. State godendo del fatto che la Germania è il paese più solido e quindi si avvantaggia oltre misura della criticità degli altri. Non lo so. Comunque, che effetti politici potrebbe avere, Alessandro, questa sentenza? Se ho ben capito, non dovrebbe arrivare una bocciatura, ma per effetti politici intendo dire anche una pressione, così, moral suasion in senso negativo, sulla Banca Centrale Europea. Quale potrebbe essere, vabbè, intanto la sentenza, ma la pressione politica sulla Banca Centrale Europea di una corte costituzionale come quella tedesca che va a valutare se la Banca Centrale Europea può o no varare un piano di salvataggio degli stati, cioè il piano OMT? Intanto va precisato una cosa, che oggi e domani ci sono queste udienze, ma la sentenza non arriverà prima di settembre, presumibilmente dopo le elezioni tedesche, certo, del 22 di settembre, quindi c'è ancora qualche tempo prima di avere una parola definitiva dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, come dicevamo, non può imporre niente alla BCE, può solo semmai dare delle indicazioni che non sono neppure delle condizioni, oppure cercare di interferire, diciamo, col sistema tedesco. Deve però stare attenta, perché anche la Bundesbank ha per costituzione, diciamo nella sua costituzione, l'indipendenza totale, quindi neanche alla Bundesbank la Corte Costituzionale può imporre delle cose. È chiaro che se desse determinate indicazioni che ponessero dei limiti o comunque favorissero l'atteggiamento già piuttosto ostico della Bundesbank nei confronti dell'OMT, è chiaro che anche se non formalmente, diciamo che nella pratica la credibilità di mercato degli interventi della BCE, quando il suo principale azionista che è la Bundesbank se ne chiama fuori, potrebbe essere molto limitata. Quindi diciamo che anche se formalmente lo spazio di manovra della o legalmente della Corte Costituzionale tedesca è abbastanza ristretto, anche una mezza parola potrebbe provocare delle turbolenze di mercato. C'è però anche chi sostiene che la Corte Costituzionale si limiterà probabilmente ad ammettere l'OMT e semplicemente a fornire alcune indicazioni di massima che saranno facilmente diciamo risolte dalla BCE, e questo non creerà ulteriori problemi. Gli esperti anche giuridici sono divisi e gli esperti di mercato non hanno le idee chiare su questo. Credo che bisognerà aspettare un po', però questo chiaramente crea incertezza e crea potenzialmente, sì, delle turbolenze. Sì. Poi vedremo come andranno le elezioni in Germania e a quel punto, se dovesse essere riconfermata Angela Merkel, se questo permetterà a Angela Merkel di muoversi con minor pressione da parte dell'opinione pubblica, non essendo sotto elezioni, magari accettare anche politiche più accomodanti per la crescita. Grazie Alessandro Melli in collegamento con noi da Berlino. Mentre stavamo parlando, le agenzie hanno battuto la notizia che in Grecia chiuderà la televisione pubblica. La leggo assieme a voi. Il portavoce governo ellenico Simos Kedikoglou ha annunciato la chiusura della TV pubblica e il licenziamento di tutti i 2.800 dipendenti. La decisione comunque rientra nell'ambito del programma delle privatizzazioni dell'azienda e a partecipazione statale concordato con la Troica. Un po' come se noi chiudessimo la RAI e licenziassimo tutti i dipendenti RAI per poi riaprire, ma con un organico molto molto più ridotto. So che alcuni sarebbero anche a favore e già mi aspetto gli sms. Comunque 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Molti quelli che sono arrivati sulle notizie del lavoro minorile. Allora, vediamo di capirci. Molti scrivono: ma insomma, io da bambino ho aiutato mio padre o una mia famiglia, è comunque un'esperienza, ti forma. Meglio, scrive un ascoltatore, se lavorano a 15 anni è sfruttamento, se vanno in giro a farsi le canne va tutto bene. Ma no, ma chi l'ha mai detta una cavolata del genere? Però esiste una legge, e la legge prevede che l'età minima è del 2007 per accedere al lavoro è fissata a 16 anni con obbligo di istruzione scolastica per almeno 10 anni. E insomma, e poi c'è un'eccezione introdotta dal collegato lavoro nel 2010 per quelli che hanno già compiuto 15 anni e non hanno ancora assolto l'obbligo di istruzione, possono entrare nel mondo del lavoro con un contratto di apprendistato, il famoso apprendistato introdotto nel 2010. Allora, anche qui sappiamo tutti che aiutare la famiglia, il padre, la madre, può essere comunque un'esperienza. Andrei cauto a dire che quello è sfruttamento, però lavorare in pianta stabile non avendo i requisiti di legge, quello è sfruttamento di lavoro minorile. Possiamo girarla come vogliamo, la legge prevede solo una deroga se hai già compiuto 15 anni, che è quella dell'apprendistato, tutto il resto è illegale. Non avevo dubbi che molti vorrebbero che anche l'Italia seguisse l'esempio della Grecia sulla RAI. Adesso però andiamo alla borsa, che ha vissuto una giornata molto difficile, devo dire. Alla fine ha chiuso meglio della giornata, meno 1,60%, è arrivata a perdere più del 2% Milano, Parigi meno 1,40%, Francoforte meno 1%, Londra meno 1%, l'America invariata, soprattutto oggi a Milano deboli i bancari, ma non solo, perché Mediaset e Finmeccanica sono i due titoli peggiori. E allora borsa sia... Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dicevo, Mediaset meno 3,94, Finmeccanica meno 3,70. Poi arriviamo ai bancari e a che cosa ha causato o portato alla loro debolezza. Comunque, Mediaset e Finmeccanica. Finmeccanica, ovviamente, appunto, continuano a esserci dubbi su quello che è il futuro della società, ci sono diversi nodi da sciogliere a partire dalle cessioni e quant'altro. Per quanto riguarda Mediaset, è vero sì che è andata male, ma ricordiamo che è uno dei titoli che negli ultimi mesi ha vantato la miglior performance. Solamente a metà novembre le azioni si attestavano intorno a 1,20-1,30 euro, quest'oggi con il ribasso anche delle ultime sedute, nonostante il meno 3,9% di oggi, comunque si attestano a 2,34 euro, di sicuro, appunto, ricordiamo che da metà novembre hanno corso, non oserei dire, quasi all'impazzata, per cui ovviamente quando si va a prendere profitto si vendono soprattutto le azioni che hanno corso di più. Ancora, sì, questo è normale. I bancari invece hanno ricevuto da un lato lo spread che è tornato a 280 punti, e questa non è mai una buona notizia per le banche italiane che hanno molti titoli di Stato, ma dall'altra c'è un report. Io sui report ho fatto la solita premessa all'inizio del programma: non mi fanno impazzire, vorrei sapere il conflitto di interessi che c'è in chi li emette, cioè quante azioni ha in portafoglio, quanti in portafoglio ha delle azioni che va a giudicare. Però, insomma, Societe Generale ha detto che le banche italiane sono un po' sopravvalutate. Sì, infatti è un report che circola nelle sale operative già da ieri e appunto punta l'indice sugli istituti italiani sostenendo che probabilmente sono un po' sopravvalutati, soprattutto tenendo conto della situazione di recessione italiana. Poi, come ha detto tu, fondamentalmente lo spread è tornato a 280 punti, non solo il rendimento dei bond governativi a 10 anni nel corso della seduta si è spinto sopra il 4,4% e quindi ovviamente ogni volta che c'è maretta sui titoli di Stato ne risentono subito le azioni delle banche, visto che gli istituti italiani sono pieni di titoli di Stato. Ancora sui titoli. Bene, invece parliamo di qualche titolo positivo. Autogrill più 1,70%. Sì, Autogrill ormai è sotto i riflettori dalla scorsa settimana, dopo che si è tenuta all'assemblea dei soci che ha dato il via libera alla scissione delle attività di duty free rispetto a quelle di ristorazione. E a margine dell'assemblea stessa Gilberto Benetton, presidente della società, ha dichiarato che a questo punto le due società, una volta che saranno separate, potranno fare con maggiore facilità operazioni straordinarie. Non solo, aveva anche dichiarato che la famiglia Benetton è anche pronta a cedere la maggioranza del capitale nel caso in cui si prospettassero operazioni interessanti e diciamo da quel giorno della scorsa settimana i titoli sono un po' tallonati dagli ordini in acquisto e anche oggi si sono messi in evidenza con questo più 1,68%. Poi sono due i titoli che oggi sono andati bene. Uno è appunto Autogrill e l'altro è Parmalat, più ha guadagnato un mezzo punto percentuale, si avvicina l'assemblea dei soci di venerdì, è scattato un po' il conto alla rovescia, certo. Chissà che non ci siano anche in questo su questo fronte dei colpi di scena. Allora, non abbiamo detto però le variazioni dei titoli bancari, adesso ve le do io. Azimut meno 3,60, ma soprattutto Banco Popolare meno 2,94%, Intesa San Paolo meno 2,90%, Fondiere Assai meno 2,80%, ma adesso parliamo di Fondiere Assai. Invece Popolare Emilia Romagna meno 2,70, Ubibanca meno 2,60, che mi manca, Monte dei Paschi meno 1,60, Generali meno 1,40%. Dunque, Eleonora Micheli, dicevamo dei titoli, Fondiere Assai da un lato, negativa del 2,81%, ma anche Enel oggi pesante, meno 2,90%, e a sto punto non c'è due senza tre, dammi anche Rizzoli Corriere della Sera che ha perso il 4,50%. Sì, per quanto riguarda Fondiare Assai, meno 2,8%, ma nel durante della seduta è arrivata a perdere il 5%, è entrata anche in asta di volatilità e probabilmente ha dato il là alle vendite anche il fatto che il presidente Cerchiai, che era presente a un convegno, non ha voluto commentare le indiscrezioni circolate in questi giorni circa un possibile interesse da parte del finanziere americano Warren Buffett per le attività che il gruppo Unipol metterebbe in vendita. E poi sempre Cerchiai, sempre quest'oggi, ha detto che la compagnia assicurativa non ha stretto alcun patto occulto con altri soci di Pirelli, come era stato ipotizzato, ricordiamo che è una partecipazione in Pirelli. E per quanto riguarda invece Fiat, era partita male, poi alla fine ha ridotto il calo allo 0,4%, anche in questo caso ci sono forze contrastanti, da una parte infatti si ha il timore che la società, come riportato da indiscrezioni, possa effettivamente avere allo studio un aumento di capitale, ipotesi che comunque è stata smentita da Sergio Marchione, l'amministratore delegato, dall'altra si continua a scommettere su cosa succederà sul futuro. Di sicuro a breve l'azienda dovrebbe muoversi nel senso di comprare l'ulteriore quota che non detiene in Chrysler e poi vedremo che cosa succederà, se ci sarà la quotazione a Wall Street, l'integrazione Fiat-Chrysler, insomma è una partita da giocare su cui sicuramente gioca la speculazione. E infine, per quanto riguarda il Corriere della Sera, RCS è andata male, i titoli nel corso della seduta sono arrivati a perdere anche in questo caso oltre il 5%, hanno chiuso meno 4,5%. Oggi il Messaggero ha riferito ipotesi su come verrà rilanciato l'aumento di capitale da 380 milioni che partirà proprio lunedì. In particolare, secondo il Messaggero, il prezzo delle nuove azioni potrebbe essere a sconto del 20-30%, peraltro è una notizia quasi positiva visto che inizialmente circolavano prezzi ancora più bassi a sconto del 50%, però ovviamente questo tecnicamente induce alle vendite, ecco perché i titoli hanno perso oltre il 4%. Ecco, su Enel mi confermi che c'è una raccomandazione negativa, anche qui un report che non mi fanno impazzire, di Credit Suisse? Sì, in questo caso è il Credit Suisse che ha puntato l'indice sul fatto che Enel è presente in Italia e Spagna, paesi che come si sa soffrono più se ne accorge che adesso, gli altri paesi. No, ma interessante. E poi c'è torniamo al discorso di cui sopra, sempre. Vorrei sapere, Credit Suisse ha azioni Enel, se le deve comprare o se le deve vendere, perché sennò non mi fido, ma non ce l'ho con te. Ce l'ho con questi report. Grazie Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Noi restiamo in tema di borse e di risparmio, però per capire la differenza tra percezione da un lato e attività di investimento e scelte di investimento dall'altro. Allora, l'identikit dei risparmiatori italiani lo ha tracciato questa volta la banca italiana del gruppo UBS, quindi la filiale italiana del gruppo UBS, che opera nel settore del wealth management, quindi della gestione dei patrimoni. Un'indagine sui risparmiatori effettuata assieme all'istituto di ricerca Eurisco, ed è in collegamento con noi il responsabile di ricerca e strategia di UBS Wealth Management, Loris Centola. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Il campione degli intervistati e anche la distribuzione geografica. Beh, abbastanza vario, abbiamo chiesto a Eurisco di porre una serie di domande ad un campione uomini e donne residenti in 5 città italiane: Roma, Torino, Modena, Treviso e Padova, di medio o alto livello di educazione, con un'età compresa tra i 40 e i 60 anni, operante in diversi settori industriali, quindi un campione abbastanza rappresentativo. Ecco, che cosa emerge? Perché voi avevate quattro temi in oggetto, no? Percezione dell'economia globale, nazionale e territoriale, approccio negli investimenti, fiducia nei confronti dei mercati e anche il grado di informazione finanziaria. Esattamente. Beh, diciamo che la situazione è abbastanza chiara. Per quanto riguarda il primo punto, il contesto generale, gli italiani, non una grande sorpresa, sono piuttosto negativi. Per il 41% degli intervistati, infatti, la congiuntura economica internazionale è destinata a peggiorare nel corso dell'anno. A livello nazionale la situazione peggiora addirittura, con il 64% del campione che ha dichiarato che si aspetta un inasprimento dell'economia in Italia. Stessa cosa per le aspettative. Cioè un peggioramento dell'economia in Italia, inasprimento in questo senso? Esattamente, sì. Esattamente. Alle 18:08 riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento sulla ricerca di UBS Italia Wealth Management con Eurisco per quello che riguarda da un lato la percezione della situazione economica degli italiani e dall'altro anche le scelte di investimento. Dicevamo prima con chi ha curato la ricerca, quindi Loris Centola, che insomma il 41% degli intervistati, secondo il 41% degli intervistati, la congiuntura economica è destinata a peggiorare, mentre un altro 64% prevede un peggioramento dell'economia italiana. E altrettanto incerte anche le prospettive sull'attività privata, sul business privato. Solo il 14% degli italiani intervistati si aspetta infatti una crescita della propria attività professionale nel 2013. Dottor Centola, questa è la fotografia che voi avete scattato. Quali sono le contraddizioni, barre, incongruenze rispetto poi alle scelte di investimento? Ma ci sono una serie di percezioni false e parecchie contraddizioni. la percezione dell'italiano nel nostro campione è incredibilmente fuorviata. Pensi che oltre il 60%, come diceva anche prima, degli intervistati ha detto che i mercati sono stati ribassisti nel 2012, mentre quello che è successo è che i mercati non sono stati mai così forti negli ultimi 27 anni. Dobbiamo andare indietro al 1985 per ritrovare le più disparate classi di attività così a rialzo. Ora, cioè, la percezione dell'opinione pubblica che voi avete fotografato nel vostro campione è che in realtà la borsa sia andata male, le borse, nel 2012, anche se sono andate benissimo. Esatto, non solo la borsa azionaria, ma anche le obbligazioni, anche le commodities, quindi le materie prime, anche l'immobiliare, un po' tutto, e invece questo non corrisponde alla realtà. Sì, è strano, noi cerchiamo di raccontarla tutti i giorni, ma è obiettivamente strana questa differenza che riporto più alla finanza comportamentale, che altro tra percezione e realtà. Tra l'altro molti sono anche negativi sul loro portafoglio privato, cioè al di là di quello che è stato il movimento dei mercati, quando vanno a valutare come è andato il loro specifico investimento. Esattamente, la percezione della gestione del patrimonio evidenzia diffusa insoddisfazione. Il 33% degli investitori del nostro campione giudica negativo o pessimo il rendimento del proprio portafoglio nel 2012, solo un 16% invece ha pareri positivi, il che è ancora più incredibile, perché se non si seguono i mercati allora si può spiegare per quale ragione si pensa che i mercati siano andati male, ma alla fine il rendiconto alla fine dell'anno lo si va a vedere ed effettivamente il rendiconto dovrebbe essere positivo, qualunque cosa avessero investito nel 2012. Previsioni sull'andamento degli investimenti personali nel 2013 sono da stabili a negativi, 61% degli intervistati dicono stabili, 19% negativi, quindi vedono i mercati continuare nella loro percezione ad essere negativi, nonostante poi da inizio anno siano andati bene. Certo, poi c'è anche una sovraesposizione sull'Italia, voglio dire, l'abbiamo spiegato molte volte anche Deborah Rosciani la mattina con Salvadanaio, quando uno investe, l'Italia pesa per il 3,5%, anche un po' tanto, è un po' scesa nella produzione mondiale di beni e quindi il nostro PIL, questo è. E in realtà gli italiani che voi avete intervistato sono investiti in Italia per un 38%. Ora è chiaro che la logica vorrebbe essere investiti laddove l'economia cresce, laddove si producono utili e ricchezza, oltre al fatto che insomma avere quasi la metà, non proprio la metà, un po' di meno, tra un terzo e la metà dell'investimento in Italia è troppo per quello che poi è il peso specifico dell'Italia nella ricchezza e nella produzione di ricchezza mondiale. E quindi attenzione, lì converrebbe anche con una consulenza, ma diversificare verso l'estero l'investimento. Un'ultima nota che ci riguarda da vicino, l'informazione finanziaria, come e da dove attingono i risparmiatori che voi avete analizzato le loro fonti di informazione? Beh, il consulente è scelto come fonte primaria di informazione. 54% del campione che abbiamo analizzato dice che sostanzialmente il consulente finanziario è la prima fonte di informazione, ma ci si appoggia anche ad altri mezzi come ad esempio internet, ha risposto il 44%, la stampa il 36% e anche amici o parenti 27%, proprio commercialista il 17% circa. Grazie, grazie a Loris Centro, appunto responsabile della ricerca e strategia per UBS Wealth Management. L'acciaio è un settore strategico come la siderurgia per l'Europa e anche per l'Italia. Crisi profonda, l'abbiamo raccontata, al di là del caso Ilva. Oggi la Commissione europea ha approvato il piano d'azione predisposto appunto dal vicepresidente della Commissione europea, nonché responsabile per l'industria, Antonio Tajani. Sei le linee di azione su cui si articola la strategia dell'Unione Europea, se ho ben capito il miglioramento del quadro normativo, rilancio della domanda, migliore accesso ai mercati, politiche per l'energia e il clima e più innovazione e difesa dell'occupazione. Questo appunto per fronteggiare il calo della domanda e anche la cosiddetta sovracapacità produttiva, cioè si produce più acciaio di quello che viene richiesto. È considerata a livello mondiale più o meno di 540 milioni di tonnellate, quelle in più, di cui 80 milioni prodotte in Europa. L'Europa resta, con Germania e Italia, uno dei principali mercati siderurgici, mercati e anche luogo di produzione della siderurgia a livello mondiale. Pensate però che la crisi del settore colpisce direttamente o indirettamente circa 500 siti produttivi in Europa, e sono già stati persi a livello europeo 40.000 posti di lavoro. Gli occupati sono scesi a 360.000. Siamo in collegamento con il vicepresidente della Commissione Europea, nonché chi ha anche la delega su questi temi, Antonio Tajani. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, avete appena approvato le 6 linee di azione, dette così, chiaramente sono un po' generiche. Come si fa a contrastare un calo della domanda, che chiaramente non dipende solo dall'Europa, ma anche dall'Europa, con 80 milioni di tonnellate di sovrapproduzione in Europa? Noi abbiamo approvato un piano strategico, è la prima volta dopo il piano d'Avignon del 77 che l'Europa si dota di una strategia a breve e a lungo termine per sostenere un settore imprenditoriale fondamentale per la nostra Unione. Già ha elencato quali sono le 6 aree di azioni, che prevedono anche una serie di azioni dirette della Commissione europea, una serie di azioni che devono compiere gli Stati membri. Individuiamo anche quali possono essere le risorse finanziarie per sostenere questo piano d'azione. Naturalmente affrontiamo con una serie di proposte, una serie di iniziative, tutti i comparti dal quadro normativo, che deve essere chiaro e prevedibile, perché c'è un peso forte a causa di una legislazione, di una burocrazia che fanno aumentare i costi. Stiamo lavorando per il rilancio della domanda interna dell'acciaio, supportando i settori chiave che lo utilizzano, in particolare l'auto. C'è già la strategia CARS 2020, il settore delle costruzioni e il settore della cantieristica navale, tutti i settori dove già, ripeto, ci sono piani d'azione che ho avviato insieme ai miei colleghi. Poi c'è il grande tema dell'accesso alle materie prime, sì, e della trattativa a livello internazionale. Più c'è la questione dei costi dell'energia. Noi invitiamo tutti gli Stati membri a non aumentare la pressione fiscale su questo argomento, cercando poi anche di avvertirli che nelle successive raccomandazioni che verranno fatte nell'ambito del semestre terranno conto anche di questa mancata disponibilità a ridurre o quantomeno a contenere la pressione fiscale sul costo dell'energia. Più c'è tutto ci sono una serie di interventi che riguardano il rottame, che sapete soprattutto per la produzione in Italia è fondamentale. Monitoreremo tutta l'esportazione del rottame, in più faremo una proposta legislativa per impedire che venga esportato illegalmente acciaio utilizzato, perché invece potrebbe essere riciclato all'interno dell'Unione Europea, rafforzando il potere ispettivo. Più ci sono tutte le iniziative per sostenere i lavoratori, quindi anche tutti gli aspetti sociali. Quali soldi utilizzare? I fondi strutturali, quelli di Orizzonte 2020, che sarà il prossimo, chiamiamo così, l'ottavo programma quadro, il fondo per il carbone e l'acciaio, il fondo sociale europeo e il fondo europeo per la globalizzazione. In più gli Stati membri potranno dare aiuti di Stato per gli obiettivi di Europa 2020, quindi ribadiamo per alcune cose particolari, ricerca e sviluppo, innovazione, aiuti per la formazione e l'impiego, aiuti per aumentare la protezione dell'ambiente, per controbilanciare i costi indiretti del sistema ETS, come i prezzi dell'energia più alti, si potranno dare aiuti di Stato. E poi un'altra idea nuova è quella di destinare i proventi derivanti dal sistema ETS da parte di Stati membri a favore della ricerca e dell'innovazione. Già c'è questa possibilità, ma noi invitiamo gli Stati membri a farlo e magari aumentare la quota di percentuale che potranno dare utilizzando questo mercato per la ricerca e l'innovazione nel settore dell'acciaio. In più, concludo, la Banca Europea degli Investimenti. Noi abbiamo lanciato la proposta che le aziende possono fare domanda per prestiti preferenziali per assicurare l'adeguamento dei loro impianti alle migliori tecnologie disponibili, e quello che per esempio si potrebbe fare all'Ilva di Taranto. Ecco, poi adesso ci arriveremo. Quindi un piano molto articolato, però mi dica una cosa nel concreto, Tajani. Ho capito gli aiuti di Stato che voi concedete all'interno di certe tipologie di intervento, però per quello che riguarda i fondi europei, di che cifra stiamo parlando? Le cifre sono ancora da individuare per quanto riguarda la parte dell'orizzonte 2020, perché come sapete c'è un dibattito in corso, la proposta della Commissione erano 80 miliardi di euro per il pacchetto orizzonte 2020 e all'interno di questo ci potrebbero essere cifre da decine se non di centinaia di milioni per alcuni comparti industriali come può essere quelli dell'acciaio, però bisogna ancora vedere come si concluderà l'accordo tra Commissione Europea, Consiglio e Parlamento, mentre ci sono ancora mi pare 280 milioni del fondo di ricerca per il carbone e l'acciaio, il vecchio fondo CECA, che punta soprattutto a tutelare la salute dei lavoratori che operano nell'industria dell'acciaio. Questi sono ancora presenti e poi vedremo anche il fondo di globalizzazione che noi intendiamo rinforzare, ma ripeto, c'è un dibattito in corso, quindi tutti questi sfondi per quanto riguarda le prospettive finanziarie in corso potranno essere utilizzati da subito, poi bisogna vedere le prospettive finanziarie 2014-2020 per quantificare esattamente quanti la cifra, la andare. Cifra e la cifra esatta, perché è ancora in corso il dibattito sulle prossime prospettive finanziarie. Ecco, non vedo un sms al 349-238-6666, attenzione. Il tema del rottame è un tema delicatissimo, ce ne occupiamo anche noi qualche anno fa, perché cosa capitava? Che il rottame veniva venduto sostanzialmente alla Cina, ma non solo, anche alla Turchia, e con la conseguenza che poi metteva in difficoltà le nostre produzioni di acciaio. Rottame europeo finiva in Cina e non restava in Europa. Questo era il tema. È una misura specifica che noi prevediamo nel nostro piano d'azione, cioè una valutazione costante, un monitoraggio costante per evitare proprio che ci sia quest'uso distorto dell'esportazione del rottame, quindi un controllo costante da parte della Commissione degli Stati su come viene venduto il rottame. Più ci sarà una proposta legislativa legata proprio al rottame per impedire che venga esportato magari con prodotti che sono considerati pericolosi all'estero, evitando, all'estero intendo fuori Unione Europea, evitando che con questi prodotti venga anche esportato acciaio, che è una componente magari di prodotti, invece vorremmo fare in modo che l'acciaio rimanga all'interno dei confini dell'Unione Europea e quindi possa essere come rottame riutilizzato. Ecco, infatti di rottame, rottamazione, si parla soprattutto in termini politici, da quando Renzi ha lanciato l'idea, invece il tema vero economico del rottame, che nonostante una domanda mondiale in calo, resta un tema, lo dico anche a chi scrive, sicuramente non così forte la tensione come nel 2005-2006, ma resta un tema delicatissimo, anche perché va bene tutto, va bene il libero mercato, ma farsi del male da soli no, cioè andare a dare il rottame nostro ai cinesi e poi avere problemi noi di costi della produzione d'acciaio, mi sembrerebbe un po' un'operazione di masochismo. Senta Tajani, questo pacchetto di aiuti, di linee d'azione, non sono solo aiuti, di linee d'azione strategiche, che potere vincolante ha nei confronti degli Stati? Alcune scelte che riguardano la Commissione Europea sono scelte che decidiamo noi, alcuni sono inviti, appelli agli Stati e c'è anche un segnale per esempio per quanto riguarda il costo dell'energia, che se gli Stati non intendono intervenire su questo fronte la Commissione Europea interverrà nell'ambito delle raccomandazioni del semestre che vengono fatte ogni anno, quindi ci sarà una ricaduta politica negativa per quanto riguarda gli Stati. Naturalmente alcune scelte sono di libera competenza, certo, degli Stati. Noi diamo comunque, garantiamo agli Stati un ombrello politico che comprende dal punto di vista operativo delle azioni della Commissione Europea, ma garantisce una strategia comunitaria che permette poi agli Stati di potersi muovere liberamente e con forza per sostenere l'industria dell'acciaio. Questo riguarda paesi come la Germania, l'Italia, la Francia, la Spagna, il Belgio, il Lussemburgo, quindi direi c'è un rafforzamento anche delle scelte che gli Stati membri potranno fare per difendere e rendere più competitivo un settore industriale fondamentale per la nostra competitività. E invece per quello che riguarda la vicenda Ilva, va a impattare sull'Ilva oppure no? Nel senso, che vantaggio potrebbe... Io ricordo sempre che al di là della cronaca di tutti i giorni, l'Ilva è il più grande stabilimento d'acciaio in Europa, per cui non ha una rilevanza solo italiana. Per l'Ilva può utilizzare i fondi BEI, può utilizzare anche gli aiuti di Stato per poter trasformare la sua produzione in una produzione meno dannosa per l'ambiente e per la salute, più c'è il fondo, dovessero esserci il fondo per il carbone dell'acciaio, per la tutela della salute dei lavoratori. generatori che può essere utilizzato e partecipare tutti ai programmi innovativi, quindi riguarda tutti i settori, ma questo pensiamo alla questione del rottame, può essere utilizzato anche da Piombino e può essere utilizzato anche da Trieste, quindi certo. È un piano d'azione che copre tutto lo spettro dell'industria europea dell'acciaio. Fatto bene ricordare anche Piombino e Trieste, perché noi parliamo sempre dell'IV, ma pensate che negli anni 50 erano 210 le acciaierie italiane in 259 stabilimenti, oggi sono 3 gli altoforni, Taranto, appunto, Piombino e Trieste, e una quarantina di siti che operano con forni elettrici. Grazie e speriamo appunto che poi le vostre linee di azione vengano il più presto recepite e da un lato, dall'altro che si arrivi a capire il prima possibile di quanti fondi disporrà l'Unione Europea per il settore dell'acciaio e della siderurgia europea. Grazie al vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani. Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie. E siamo veramente in conclusione del programma. Volete un aggiornamento su Wall Street, che in questo momento è quasi invariata, meno 0,12%. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia.